Salva Danaio di Deborah Rosciani. Buona giornata da Deborah Rosciani, ben ritrovati a Salva Danaio. A distanza di una settimana torniamo a fare il punto sulla vicenda Monte dei Paschi di Siena. L'azione della magistratura, lo ricordiamo, lo stiamo ricordando continuamente, riguarda almeno tre filoni di inchiesta: l'acquisto di Antonveneta da parte di Banca Monte dei Paschi nel 2007 per più di 9 miliardi di euro, le operazioni su derivati, il prestito convertibile, il fresh realizzati da Rocca Salimbeni nel 2008 per pagare il conto di Antonveneta agli spagnoli di Santander, e poi le pratiche di alcuni dirigenti del gruppo senese dell'area finanza accusati di fare, detta in termine non poco, non tanto finanziario, la cresta, accusati di fare la cresta sui dossier. Allora, la solidità dell'istituto, l'abbiamo già detto e noi continuiamo a ripeterlo, non è messa in discussione, però continuiamo a percepire dalle telefonate, dai messaggi, da quanto ci scrivono gli ascoltatori anche attraverso i social network, che molte sono le preoccupazioni, anche e soprattutto per quanto riguarda i piccoli azionisti. Le recenti vicende senesi hanno oltretutto acceso le preoccupazioni di alcuni risparmiatori clienti dell'istituto di credito, ma anche di altre banche riguardo il destino dei propri risparmi ed investimenti realizzati in caso di criticità per l'istituto. Allora, per sgombrare il campo da queste paure, che noi continuiamo a ritenere immotivate, e per focalizzare rischi e garanzie a favore dei risparmiatori, oggi vogliamo riepilogarvi quali sono le garanzie e le tutele su cui si può contare per i diversi prodotti finanziari. Però manterremo anche l'occhio attento sull'evoluzione giudiziaria rispetto alle vicende appunto di Monte dei Paschi, per cui oggi potete commentare con noi tanti aspetti all'800240024, oppure ci potete scrivere al 349-238-6666 all'indirizzo di posta salvadanaio@radio24.it, su Facebook salvadanaio-radio24, su Twitter @salvadanaio24. Buongiorno a Marco Loconte del Sole 24 Ore. Buongiorno. Sempre per il Sole 24 Ore Plus 24, Vitaliano D'Angerio, autore, poi lo ricorderemo anche di uno scoop proprio sabato scorso, pubblicato sabato scorso con Plus 24. Peraltro, magari lo anticipiamo già, Vitaliano, domani la copertina di Plus è dedicata alla reputazione, ecco, delle banche. Poi avremo un'altra notizia su un altro broker, poi insomma lo vedremo domani. Lo vediamo sicuramente. E poi siamo collegati anche telefonicamente con un legale di un'associazione dei consumatori che si sono ovviamente già messe in moto per capire quali strade intraprendere per garantire la massima tutela possibile ai consumatori, ai correntisti, ai risparmiatori. Con noi questa mattina l'avvocato Paolo Fiorio, legale Movimento dei Consumatori. Vorrei chiamarla per qualche caso più divertente. Avvocato, l'ultima volta che ci siamo sentiti abbiamo affrontato la questione Fondiaria SAI, non ne veniamo fuori. Avvocato, buongiorno. Buongiorno. E bentornato naturalmente. Allora, ho dato agli ascoltatori tutti i riferimenti per poter interagire con noi questa mattina, quindi utilizzateli al meglio. Adesso rapidamente un'occhiata alla giornata di borsa. E non è che abbiamo tanto l'opportunità di cambiare argomento, perché è Monte dei Paschi ad essere di nuovo in ribasso, capofila dei ribassi di Milano, adesso meno 3,77%, è arrivata a perdere oltre 5 punti percentuali, è a 23,72 centesimi, siamo ben distanti da quella soglia indicata dalla fondazione appunto Monte Paschi per poter cedere almeno il 10% del suo capitale di controllo, e non solo il titolo è ben lontano da questa soglia, ma continua anzi ad arretrare. Tra gli altri cali oggi segnaliamo Popolare dell'Emilia Romagna, meno 2,23, Saipem, meno 2, dopo il tracollo di due giorni fa, il gruppo proprio non recupera e anzi continua ad arretrare. Ieri ha rimbalzato, ma proprio è stato un rimbalzo davvero risibile rispetto al meno 43% bruciato in una sola seduta due giorni fa. Enel, meno 1,49, Generali, meno 1,42, in una giornata in cui Piazza Affari perde lo 0,43%, però stamattina le cose andavano un po' meglio. Il miglior titolo è la Popolare di Milano, più 6,75%, un gruppo pronto alla svolta organizzativa, potrebbe diventare una SPA entro marzo, anche se questa mattina un comunicato ufficiale del gruppo ha un po' frenato su questa circostanza, la riorganizzazione interna anche della governance. In ogni caso il mercato ci crede e premia il titolo. Anche Autogrill è pronto alla riorganizzazione interna, guadagna il 3,43%. Tra gli altri rialzi STM, dopo i conti pubblicati ieri, anche oggi continua a correre, più 3,21. Le altre borse cosa fanno? Bene Parigi, più 0,8, Francoforte più 0,19, Londra più 0,58, in calo di oltre un punto e mezzo invece Madrid, chissà se c'è l'effetto Santander anche sulla piazza spagnola. E chi continua a correre invece da molti giorni è l'euro, che sul dollaro stamattina viaggia a 1,3645. In verità, più che rafforzarsi l'euro, sono le altre divise internazionali che in questa guerra delle valute stanno continuando appunto ad indebolirsi per naturalmente rilanciare le proprie economie di riferimento. Per rilanciare appunto l'economia interna, parliamo di Stati Uniti ma parliamo anche di yen. Comunque per la guerra delle valute magari non è giornata di approfondimento, perché oggi ritorniamo invece, come vi anticipavo, sul caso Monte dei Paschi. Allora, noi abbiamo rubato il lavoro che Marco Loconte ha fatto per il sito del Sole 24 Ore in questi giorni e ha preso ad analizzare le situazioni individuali, in che tipo di timore si può trovare adesso un correntista MPS, un obbligazionista, un cliente che ha sottoscritto un altro prodotto di investimento, un fondo di investimento, un fondo pensione anche veicolato da Monte dei Paschi. E insomma, abbiamo anche attraverso il sito cercato di rispondere a tutti i timori che in questo momento probabilmente ragionevolmente stanno riguardando molte persone. Poi le faccio sentire, Marco, queste pilloline, però insomma mi sembra un lavoro utile. Possiamo continuare a rassicurare la platea dei nostri ascoltatori? Qual è un po' la sensazione che anche voi avete ai piani di sopra? Ti metti in imbarazzo? Nel senso che la radio primo piano e il giornale secondo piano. Esattamente. Ma questi sono dettagli. No, diciamo che la percezione della criticità è ben presente in molti clienti di Monte Paschi, così come degli altri strumenti e delle altre banche italiane, perché si chiedono giustamente che cosa accadrà del loro denaro. Bisogna rassicurare per alcuni aspetti, per altri un po' meno, nel senso che, come hai giustamente anticipato tu, le garanzie per i correntisti bancari sono molto diverse rispetto alla situazione in cui si può trovare un obbligazionista di un titolo bancario, in particolare di una banca che ha delle difficoltà come ora Monte dei Paschi, nel senso che per quanto riguarda i conti correnti esiste un fondo di tutela dei depositi, che è appunto il fondo interbancario di tutela dei depositi, che risarcisce i clienti di una banca fallita entro 20 giorni per un massimo di 100.000 euro. Dunque, sotto questa soglia un risparmiatore è tranquillo, evidentemente. L'obbligazione è un'altra cosa, non è un conto corrente. Non ce le rubare tutte le pillole. Ma no, ti ringrazio che stai facendo già questo lavoro, però insomma il tema è, intanto cerchiamo di capire qual è la relazione con questo intermediario, no? Poi chiaramente prenderemo anche in considerazione un po' tutte le eventuali situazioni di tutela che dovremo, tutte le eventuali azioni di tutela che si dovrebbero intraprendere, certo, qualora chiaramente la situazione deteriorasse. Però ancora non siamo in questa situazione. Detto questo, gli azionisti hanno invece tutte le ragioni per arrabbiarsi in queste ore, perché il titolo continua a scendere. L'azione è un capitale un titolo di capitale, è rischioso per definizione. Essere proprietari di una società vuol dire assumersi anche il rischio dell'investimento, e dunque può andare bene, può andare male, ci sono delle ragioni per cui va bene, per cui va male. Per questo un'azione non è adatta a tutte le psicologie, a tutti i portafogli. Chi ha comprato un titolo anche per una piccola porzione del proprio portafoglio per guadagnarci, evidentemente oggi vede di fronte alla cronaca una reazione negativa di Monte Paschi. È chiaro che è riflesso banalmente dell'andamento dell'inchiesta giudiziaria, anche quindi anche delle analisi sul capitale, sul patrimonio. E quindi insomma l'azionista si fida del nuovo management e magari nel lungo periodo posto che il nuovo management abbia contezza completa di quanto sia accaduto in precedenza, cosa che anche la Banca d'Italia e la magistratura stanno verificando, perché non pare che sia proprio così. Faccio intervenire qui allora Vitaliano D'Angerio, gli abbiamo dato questa assist appunto perché lui sta seguendo non tanto il filone giudiziario che sta concretizzandosi a Siena, ma anche altre procure hanno acceso il faro appunto sulle vicende senesi, però tu ti sei particolarmente concentrato nelle ultime settimane, Vitaliano, su tutti quei broker che sono stati tirati in ballo, non certo a loro insaputa, appunto nella costruzione dei vari strumenti derivati che avrebbero consentito poi in qualche maniera di colmare tutto quel buco di bilancio, chiamiamolo così, che stava maturando con l'operazione appunto Anton Bennett. Io devo sempre molto banalizzare ovviamente questioni, però di fatto un'acquisizione così importante ha portato poi alla gestione di bilancio un po'. La domanda che uno proprio semplice si può fare: perché Monte dei Paschi aveva bisogno di broker, che vuol dire agente di cambio, vuol dire intermediario, no? Di un terzo per vendere o acquistare da un'altra grande banca come Dresdner un prodotto che può essere un'obbligazione, un'azione? Cioè, perché? Cioè, è come se un salumiere chiede al barbiere di fargli da intermediario col grossista. Ma perché? Il salumiere va dal grossista e si compra i salumi, insomma. La stessa cosa. E quindi, io banalizzo, ma anche lui non è male, nella semplificazione delle cose, ma l'esempio è efficace. E quindi a questo punto, perché? Questa è la domanda che ci siamo fatti in tanti, che si sono fatti i magistrati, e poi si è scoperta con le testimonianze. Perché? Perché venivano creati dei fondi extracontabili in questo modo, che poi venivano distribuiti, poi il resto non lo so. Tra altre cose, nella operazione di cui mi sono occupato insieme a Stefano Elli su Plus 24, in quel caso Monte Paschi ci ha guadagnato quando ha rivenduto a Dresdner quello strutturato. Peccato che poi c'era questa commissione da 600.000 euro pagata a questo broker che si chiama Lutifil, no? E poi su questi 600.000 euro c'è tutta una serie di ipotesi, di indagini che hanno fatto e stanno facendo i magistrati. E noi domani parleremo di un altro broker, che però stavolta entra proprio dentro al discorso che è su Siena, quindi però su questo permettetemi di lasciare, ma certo, un velo di mistero naturalmente per poter permettere alle persone di gustarsi il tuo articolo domani. La vicenda è estremamente complicata, appunto, a parte le implicazioni politiche che noi lasciamo volentieri da parte questa mattina, però l'intreccio che sta venendo fuori è veramente complesso, e quindi io ritengo appunto che molti ascoltatori abbiano ragione anche nell'essere particolarmente indispettiti e disturbati da tutte queste vicende, perché poi anche per mettere insieme Vitaliano. No, Deborah, no, solo una cosa, vi segnalo che noi domani su Plus come copertina andiamo proprio ad analizzare la reputazione delle banche, perché a caldo, come se il paziente in questo momento avesse la febbre, abbiamo interrogato gli italiani attraverso un sondaggio della IPR Marketing, da cui emergono cose interessanti, no? E anche un po' contraddittorie, perché da una parte si dice che non mi fido delle banche, però poi con le banche ci stai da più di 20 anni. Ma d'altronde che alternative hanno? Cioè, possono sicuramente cambiare sportello bancario, ma il problema è che in fasi come questa si fa un po' di tutta l'erba un fascio, Marco, non credi? C'è questo rischio. È vero che è molto generalizzata una prassi che non riguarda solo le banche, riguarda molti soggetti che fanno operazioni di tesoreria, per esempio, con questi strumenti derivati, strutturati, che lasciano molte briciole in giro. Vitaliano stesso e noi su Plus ne abbiamo scritto per quanto riguarda gli enti previdenziali, analoghi comportamenti, no? Grandi giri di denaro che lasciano traccia o non lasciano traccia in paradisi fiscali, ma distribuiscono molte commissioni succose a intermediari non necessari, diciamo così. Vero è che poi il cliente di Monte dei Paschi di Siena, questo è il caso di specificarlo, può chiudere il conto e andare presso un'altra banca per protesta, ma ripeto, se è un correntista che ha i suoi denari sul conto corrente, non ha altre attività, non ha finanziamenti, non ha mutui, non ha titoli particolari su cui come dire, accendere un faro per quanto riguarda la tutela, come per esempio un'azione o un'obbligazione, bene, non corre dei rischi in ragione di quella dell'inchiesta giudiziaria che è in corso. Questo è il caso di specificarlo. Se ha 50.000, se ha 990, se hanno 99.000 euro, insomma, sul conto corrente, e anche nel caso malaugurato, nessuno se l'augura evidentemente, che la banca dovesse veramente avere problemi estremamente seri, comunque è coperto dal fondo. E questo è un presidio di tutela, di garanzia, che va ricordato negli altri paesi europei. In alcuni altri paesi europei il fondo di tutela è molto più basso, 50.000, 20.000 euro. Una banca olandese che opera in Italia o aderisce al fondo, anche al fondo italiano, che ha un livello di garanzia più alto, oppure può operare col fondo di garanzia olandese o una banca inglese, ma quei livelli sono più bassi. Allora, il livello di garanzia per i risparmiatori non è così da buttare via. Ricordiamoci anche di quegli elementi che ci dicono che il bicchiere non è per forza mezzo vuoto, ma anche in parte mezzo pieno. No, però ricordiamo anche che, insomma, nel caso la situazione deteriorasse ancora in maniera più clamorosa e drammatica rispetto alle condizioni attuali, c'è sempre l'ipotesi della... Adesso intanto ci sono i bond, appunto, che andranno in ogni caso a supportare la gestione finanziaria attuale. Nel caso estremo ci sarebbe o il commissariamento o la nazionalizzazione, per cui prima di arrivare addirittura a dover spiegare esattamente le procedure per poter attingere al fondo interbancario, pur essendo una tutela di tutto rispetto, è automatica e scatta, certo, entro 20 giorni dall'ipotetico fallimento. Per cui non sono i risparmi dei correntisti in discussione, sono a rischio evidentemente le azioni, le obbligazioni. Se anche un risparmiatore ha un mutuo acceso presso Monte Paschi di Siena, lo continuerà a pagare, quello non è, esatto, non cambia, non questo, no, tra l'altro è... Poi è molto divertente per certi versi, non tanto, ma sono molte le persone anche preoccupate, tra quelle che hanno sottoscritto il mutuo con Monte dei Paschi, dicono: che cosa mi succederà qualora la banca fallisse? Qualche maniera per trovare un modo per essere per continuare ad alimentarlo, a rimborsarlo, sicuramente si trova. Però insomma, situazioni di questo tipo noi per fortuna memoria... No, soltanto piccole piccolissime banche hanno avuto procedure di questo genere. È il caso di specificare laddove c'è problematica, dove c'è un problema e dove non c'è un problema, per meglio focalizzarci dove c'è il problema. L'italiano prima citava alcuni broker che si sono messi in mezzo in molte operazioni, e questa è una pratica che non solo ha radice in una certa finanza operativa nella City londinese, dove le banche sono sacre, come dicevo in un articolo, come la pizza a Napoli, no? Cioè, le banche a Londra non sono sostanzialmente intoccabili, e campa la City di questo tipo di operatività. Sentivo dire da il broker di Nomura, di Dresden, ieri sera intervistato: a Londra ti insegnano, quando ti siedi a un tavolo, se non sai chi è il pollo tra gli altri, vuol dire che sei tu. Allora, questa è la prima regola, vuol dire che c'è sempre un pollo da spennare nelle operazioni di investment bank. L'importante è o non sedersi al tavolo e quindi far fare agli altri questo tipo di operazione e gestire i propri soldi in maniera più oculata, oppure se uno proprio vuole spennare gli altri, ma insomma si accorge del rischio di essere beccato, pizzicato e finire anche dentro. Ritorniamo ai nostri problemi. Tra l'altro vedo che siamo già arrivati alle 12:27, non riesco a far intervenire in questo primo blocco l'avvocato Fiorio, che avrà sentito sicuramente delle cose interessanti. Poi con lui volevo commentare tutta la rosa di iniziative che già le associazioni dei consumatori stanno prendendo sul territorio, anche se noi settimana scorsa abbiamo invitato alla prudenza anche ad avviare appunto ipotetiche azioni di risarcimento, perché al momento non sono necessarie. Oltretutto, secondo me, dovrà essere anche dalla Procura di Siena piuttosto che da quella di Roma, che pure ha aperto un altro filone, conclamata una truffa, certo, o comunque un'azione di responsabilità molto pesante da parte dei vecchi manager, per poi chiaramente avere le condizioni per potersi rivalere. Per cui direi che al momento segnaliamo sicuramente tutte le iniziative, però prima di salire a bordo di un'associazione dei consumatori piuttosto che di un'altra, vediamo un attimo in quale condizione ci si ritrova. Hai sottoscritto un'azione MPS? Chi sottoscrive l'azione di una società quotata in borsa partecipa al rischio connesso all'impresa. Ne diventa cioè comproprietario. Ha la facoltà di far sentire la sua voce sulla gestione della società partecipando all'assemblea degli azionisti. Può, insieme agli altri, presentare liste per i consigli, ma non ha garanzia alcuna sul proprio investimento. La Le pilloline sono brevi e allora noi abbiamo adesso proposto ai nostri ascoltatori, come dire, anche le linee guida di comportamento a chi in questo momento fosse azionista di Monte dei Paschi, si è appunto spaventato per l'andamento del titolo, che è una discesa costante ed inesorabile da molti giorni a questa parte. Stiamo ritornati stamane appunto sul caso Monte dei Paschi per cercare di capire un po' che cosa potrebbe succedere, come devono anche in questo momento comportarsi tutti coloro che ragionevolmente anche si stanno spaventando rispetto a quello che continuano a leggere sui giornali. D'altronde ogni giorno la magistratura ne scopre una diversa. L'avvocato Paolo Fiorio, legale del Movimento Consumatori, ancora buongiorno. Intanto io ho chiamato il Movimento Consumatori perché questa è un'associazione dei consumatori che nei giorni scorsi ha deciso di ritirare la sua adesione a Consumer Lab, il tavolo comune che era stato attivato dal gruppo Monte dei Paschi e le associazioni dei consumatori con l'obiettivo di migliorare la trasparenza e il dialogo con la clientela della banca. Al momento le altre continuano a sedere appunto su questo tavolo, il Movimento Consumatori ha deciso invece di venire fuori, anche perché hanno detto appunto che in tutto questo rapporto che dura da qualche anno, per la verità Monte dei Paschi in altri momenti non avrebbe manifestato molta trasparenza di comportamento. Detto questo, avvocato Fiorio, lei, a parte il commento su questa decisione, in realtà può dirci forse qualcosa di più anche rispetto alle preoccupazioni che alla vostra organizzazione stanno esprimendo in questo momento i vostri associati sulla situazione appunto attuale? Sono più i risparmiatori che si spaventano, più gli azionisti, più gli obbligazionisti o chi altro? Ma buongiorno a tutti. In questo momento chi ha delle ragioni per temere dei propri risparmi sono sostanzialmente gli azionisti, che le perdite le hanno già subite. Diciamo, ci sono alcuni allarmismi tra i correntisti e gli obbligazionisti, però diciamo la situazione dei correntisti e degli obbligazionisti ad oggi non è toccata e non ci sono delle perdite. Sostanzialmente la situazione riguarda gli azionisti. È vero, come è stato detto nel vostro servizio, che l'azionista partecipa del rischio della società, però è anche vero che l'azionista partecipa di un rischio quando acquista le azioni in un sistema corretto, trasparente, e quando il prezzo delle azioni riflette effettivamente il loro valore effettivo. Se i bilanci della società non sono veritieri e se quindi ci sono dei falsi in bilancio, cosa sulla quale sta indagando la magistratura per la valorizzazione in bilancio dei contratti derivati, allora vuol dire che spesso magari le azioni vengono acquistate ad un prezzo superiore rispetto al loro valore reale, perché la società ha un patrimonio diverso, così come magari chi le ha, a fronte di bilanci che continuano ad essere sostanzialmente accettabili o buoni, magari non disinveste da quel titolo e quindi è danneggiato. Quindi è vero che ha un rischio maggiore rispetto all'obbligazionista, ma altrettanto vero che l'azionista può comunque porre in essere poi delle azioni per ottenere il problema è però se ottiene anche un risultato, perché avvocato Fiorio, lei se lo ricorderà molto bene, anche se gli ascoltatori tutte le volte che faccio questo parallelo si indispettiscono, lei si ricorderà bene che con il caso Parmalat, pur avendo come dire dimostrato la magistratura, perché Tanzi è ancora in carcere, una truffa, una gestione di bilancio totalmente al di fuori di ogni normativa e quant'altro, gli azionisti non hanno ottenuto nessun tipo di risarcimento in questi anni. Vecchi obbligazionisti hanno dovuto applicare con il concordato una procedura complicatissima per rientrare del loro investimento, per cui io ritengo che lei abbia ragione, che naturalmente anche gli azionisti dei Monte dei Paschi adesso abbiano tutte le ragioni per poter anche ipotizzare di chiedere un indennizzo, un risarcimento, quello che vuole, però poi l'ottenerlo è un altro paio di maniche. Sì, sì, siamo di fronte però a situazioni diverse. La Parmalat era all'epoca insolvente, oggi il Monte dei Paschi diciamo presenta delle criticità ma non è insolvente, quindi c'è una situazione diversa alla base. Però io quello vorrei anche dire, cioè di fronte a questa vicenda del Monte dei Paschi, cioè le reazioni che i cittadini, i risparmiatori e la nostra associazione, secondo noi è importante che mettano in campo, non sono solo reazioni diciamo risarcitorie per le quali ci si muoverà nei prossimi mesi anche a seconda dell'esito delle indagini penali. Qui però bisogna capire che è una vicenda esemplificativa nella quale ci sono alcuni nodi di come la finanza oggi è gestita ed è strutturata che devono essere affrontati e risolti. Cioè, è impensabile che una banca che abbia quale attività primaria, quella di concedere il credito alle famiglie e alle imprese, investa buona parte del proprio patrimonio in operazioni così rischiose come sono quelle che sono venute fuori in questi giorni. Tutti... È necessario, questa è una battaglia sulla quale noi torneremo, che le banche commerciali siano, quindi quelle che fanno il credito alle imprese e alle famiglie, siano separate dalle banche di investimento che possono anche, diciamo, effettuare alcune operazioni speculative. Andrà verso queste separazioni, i rischi saranno oggettivamente Ritorniamo sempre indietro a discutere della opportunità di fare l'acquisizione di Antonveneta. Tutti coloro che abbiamo sentito in questi giorni, pur contestando completamente l'operato di Monte dei Paschi, poi negli anni che sono seguiti, hanno detto la stessa cosa. Era l'ultimo carro sul quale poter salire per fare in modo che MPS diventasse una grande banca italiana dopo l'operazione di Unicredit con capitali e dopo la integrazione tra Intesa San Paolo e tra Banca Intesa e il San Paolo appunto di Torino. E lo so, Marco, che tu scuoti la testa, però insomma Le considerazioni c'era sono la corsa quelle. C'era una grande ambizione, un grande ego anche manageriale, perché insomma Antonveneta non era un colosso, diciamo, è stato sì l'ultimo possibile deal per poter essere competitivi con gli altri, con il, come dire, Unicredit Capitalia, certo, che si è unita con che Intesa San Paolo, che poi ballassero 2 miliardi tra il prezzo con cui gli olandesi l'avevano ceduta al Santander e poi il prezzo a cui il Santander dalla Spagna l'ha venduta appunto all'Italia, a Monte dei Paschi. Anche questo è un altro, questi 2 miliardi. Non so se italiano, sono 2 miliardi, sicuramente ieri c'era un articolo sul Sole di Antonello Olivieri che è stata la prima a scrivere di questo Interbanca, questa, e lì pare che sia un po' il vero perno di tutta la situazione. Lei ha scritto l'articolo ieri che già comincia a spiegare in modo dettagliato tutta una serie di situazioni. Oggi vedo che anche su altri giornali ne parlano. E lì è un po' la chiave nella cessione, nel riacquisto di Interbanca. È un po' la chiave di tutto. Va bene, comunque andiamo adesso ai nostri ascoltatori, altrimenti penseranno che li abbiamo interpellati così per divertimento e li vogliamo far ascoltare Salva Danaio dal telefono. Mauro dalla provincia di Pistoia, buongiorno. Buongiorno. Buongiorno. Senta, complimenti per la trasmissione. Io volevo domandare innanzitutto una cosa agli esperti. Siccome io sono cliente del Monte dei Paschi, diciamo dall'80, anche più, e c'ho un portafoglio, diciamo, abbastanza insomma alto. In compenso ho delle obbligazioni del Monte dei Paschi che saranno 6 o 7 in 6 o 7 diciamo scadenze. Ora, io se io dovessi cambiare banca da un momento all'altro, per dire, a parte il conto corrente e il stipendio che mi arriva lì, diciamo, era una banca che mi sembrava affidabile perché, diciamo, ci avrei la maggior parte di lavoro. Mauro, ora, se io levo tutto e rimango sempre, diciamo, vado in un'altra banca, però tutte le obbligazioni del Monte dei Paschi, tra i quali una stamattina sono andata a vedere, mi scade nel 2018. Voglio sentire come poteva andare a finire. Poi c'è anche obbligazione ENI, cioè, insomma, diciamo... C'ha un dossier titoli che è tutto appoggiato su Monte dei Paschi, in sostanza. Le azioni che sarebbero, è la sua banca. Fiat e tutto il resto, tutti, diciamo, tutte lì. Però le azioni, a parte il mercato, insomma... Però le obbligazioni del Monte dei Paschi, che ne avrei 6 o 7 voci, e l'ultima mi scade nel 2018. Voglio sentire, anche se io stamattina voglio cambiare un'altra banca, ma portando tutto il mio portafoglio... Certo, quelle sono sempre di Monte dei Paschi, ovvio, non è che cambia emittente, giusto? Qualcosa o sono sempre nella solita bufera? Mauro, non è nessuna bufera, intanto si tranquillizzi perché questo è il nostro obiettivo di questa mattina. Devo dire che anche la settimana scorsa... L'atteggiamento di Mauro era ricorrente in tanti altri ascoltatori che ci avevano chiamato. Uno ci ha testimoniato, ci ha detto: io stamattina ho discusso con il mio direttore di banca perché ho voluto disinvestire tutte le obbligazioni, non mi interessa come vanno a finire le cose, la banca sicuramente è solida, i nuovi manager stanno facendo di tutto per fare questa radicale operazione di pulizia di bilancio, però io non mi fido, e quindi molti si sono trovati in queste condizioni. Ci sono due ordini, immaginiamo, di anche i dipendenti in che situazione si trovino adesso. Ci sono due ordini di problemi più generali. L'italiano D'Angelo, sì. Non si può fare adesso il caso Monte Paschi oggi e basta, bisogna fare un ragionamento purtroppo un attimo a priori, e dipende anche dal patrimonio che uno ha. Il signore diceva che ha 7-8 obbligazioni in Monte Paschi. Innanzitutto bisognerebbe vedere quanti soldi ha, no? E poi su questo vedere la percentuale di obbligazioni in Monte Paschi e quanto ammonta. Diciamo che l'orientamento dell'ascoltatore è concentrare tutto intermediario. Il problema è questo, il problema è che lo scriviamo sempre su Sole, su Plus 24 in particolare, c'è un discorso di diversificazione del portafoglio. E quando si va in banca e vengono proposti dei prodotti, non si può andare come al supermercato, bisogna un attimo vedere il profilo di rischio. Quando tu ogni giorno parli di queste cose e poi dopo vedi si verificano i problemi, certo. E allora non è che sono cose generiche, bisogna pensarci prima a queste situazioni qua. Tu hai ragione, noi stressiamo tanto il concetto della diversificazione del rischio, della diversificazione dei prodotti, della diversificazione degli intermediari, degli emittenti, ma sono anche tante moltiplicazioni dei costi. Voi sapete bene che in Italia la ricchezza è concentrata su poche persone, molti sono, come dire, lavoratori che non possono permettersi neanche di avere tre dossier titoli aperti su tre banche differenti, anche perché adesso con la rimodulazione della tassazione sta diventando anche operazione onerosa. Basta uno di dossier titoli, però se tu hai 100.000 euro sul dossier titoli non puoi avere due terzi o la totalità investita nello stesso, perché l'errore che ha fatto la fondazione di Siena, ha investito quasi tutto il suo patrimonio nella banca di Siena, dove invece ci sono altre fondazioni che hanno diversificato. Certo, sgridarlo adesso il povero Mauro però adesso lui dice: cosa posso fare per tranquillizzarmi? Intanto la sua banca sta bene adesso ancora. Marco Lo Conte, non mi ridere, dimmelo. Allora, intanto sul mercato ci sono collocate 139 tipi di obbligazioni diverse di Monte dei Paschi, hanno delle scadenze differenti, tutti i rendimenti che oscillano fra 3 e il 6%. Bisogna vedere che cosa sia in portafoglio, se se ne ha una privilegiata o una un po' più rischiosa che, qualora non potesse essere rimborsata, tale rimarrà appunto non rimborsata. Allora, facciamo un po' di chiarezza. L'interesse che tu indicavi è riconosciuto, definito all'emissione e riconosciuto nel periodo di vita dell'obbligazione. A scadenza la restituzione del capitale è pari a 100. C'è un altro elemento da specificare: le obbligazioni possono essere quotate o non quotate. Quelle non quotate, allora, quelle quotate fanno prezzo quotidianamente, nel senso che vengono scambiate dagli investitori piccoli e grandi. Attualmente quelle quotate, se un emittente non sta molto bene, sostanzialmente il valore di quell'obbligazione scende, così come scende il valore delle azioni sostanzialmente. Quindi, perché, per esempio, se uno non si fida, non è che deve spostarle tutte da una parte all'altra, magari può anche fare una valutazione di convenienza e dire: guarda, ci perdo un po', però sto più tranquillo magari a venderle. Può essere una considerazione. Uno si dice sempre vendere e poi pentirsi, perché poi succede così. Ma paradossalmente, se un'obbligazione non è quotata, ma è scritto nel prospetto di collocamento che la banca si impegna a riacquistare il titolo alla pari a 100, paradossalmente questo, che è sempre stato un elemento di non trasparenza, la non quotazione, in questo caso potrebbe essere un'agevolazione, un elemento positivo, perché in questo caso la banca sarebbe costretta a... Bisogna però vedere i titoli, abbiamo detto, sono una quantità sterminata, certo. I titoli obbligazionari emessi da Banca Monte dei Paschi di Siena, bisogna vedere uno per uno. Un'altra distinzione importante è sulla seniority dell'obbligazione. Appunto. Le obbligazioni senior, cioè quelle diciamo standard per i risparmiatori, hanno un grado di tutela alta. Quelli che invece sono subordinati a, per esempio, una serie di obiettivi patrimoniali o di capitale, tier 1, tier 2 e quant'altro, hanno un grado di subordinazione, hanno un grado di, diciamo, di tutela inferiore e sono più vicine al, diciamo, al rischio azionario, per meglio dire. Poi ci sono obbligazioni convertibili acquistate, peraltro anche sottoscritte da molti, col principio di dire: questa rende molto, ha sicuramente meno tutele, però tanto la banca non fallirà mai. Se per rende cui, un po' di più, vuol dire che è un po' rischio, più rischioso, un po' più alto. Ci fermiamo, suggerimenti per chi è in viaggio. Poi però volevo affrontare anche un altro aspetto, sempre relativo a Carlo che ci ha chiamato prima. Detto questo, lui adesso vuole riorganizzare il suo portafoglio. Comunque, se viene... Se disinveste tutto da Monte dei Paschi, in ogni caso queste obbligazioni rimangono con questo emittente, quindi è sempre con Monte dei Paschi che poi dovrà fare i conti. O con Eni, con Fiat, che sono gli altri titoli. A tra poco. Allora, ancora un paio di ascoltatori molto velocemente, poi già andiamo verso la chiusura di Salvadanaio, ma tanto ho l'impressione che dovremo continuare ancora a lungo su questo argomento, date le novità che, non dico ogni giorno, ma ogni minuto arrivano su Monte dei Paschi. Andiamo a Ruggero da Brescia. Ruggero, buongiorno, rapidissimo, la ringrazio. Rapidissimo. Volevo solo sapere una cosa, io non sono cliente a Monte Paschi di Siena, però quando una banca fallisce, cosa succede? I suoi creditori. Volevo solo sapere cosa succede. Cioè, sì, ma qui possiamo anche rispondere sì, molto rapidamente. A parte che c'è una attività di liquidazione, l'abbiamo visto anche per casi precedenti eclatanti all'Italia, appunto la stessa Parmalat, per cui chiaramente tutte le gestioni delle posizioni aperte confluiscono appunto. Marco Lo Conte, voi. Allora, di solito proprio inizio a instradare, qua, visto anche il ruolo della Banca d'Italia riguardo, i casi in discussione sono di piccole banche, ma sostanzialmente la Banca d'Italia, dopo i suoi interventi, dopo aver dichiarato come dire, insufficiente il patrimonio di una banca fallita, diciamo così, o in vista o che si avvia verso il fallimento, sostanzialmente fa in modo che, almeno così è successo in passato, negli anni passati, e ripeto per piccole banche, fa in modo che questo istituto di credito venga rilevato da un altro istituto di credito sufficientemente solido. Gestione ordinaria, diciamo. E quindi il rapporto tra i creditori e quella banca continua con il nuovo istituto di credito. Sostanzialmente il meccanismo, detto in maniera in soldoni, esatto, è sostanzialmente. Però insomma è uno scenario che è assolutamente in questo momento non configurabile. Franco da Lucca, buongiorno. Franco? Sì, pronto. Ci dica. Io volevo sapere, siccome sono un correntista dell'MPS, volevo sapere, siccome ho 20 sul conto corrente, ho abbastanza poco perché sono 5-6 mila euro, però ho 20 mila euro di obbligazioni che mi sono state vendute, però sono estranee al Monte dei Paschi, sono che investono in aziende europee, e 10 mila euro di un fondo comune che investe nei paesi scandinavi. Allora, Franco, la ringrazio. Beh, tanto possiamo dire che il fondo di investimenti è patrimonio separato, per cui rimarrà sempre la titolarità in capo a Franco, e Monte dei Paschi è stato intermediario in questo caso. Obbligazioni di cui Monte dei Paschi è stata intermediatrice ma non emittente. Qua, avvocato Fiorio, si vuole divertire lei su un possibile... No, molto semplice, non c'è nessun rischio perché semplicemente sono depositate tramite la banca, il Monte dei Paschi, presso il sistema di gestione accentrata, non c'è nessun rischio, cioè, l'unico rischio potrebbe esserci qualora fossero emessi dalla società che è in crisi i titoli, in questo caso i titoli subordinati, si è detto prima, il cui rimborso è parametrato all'andamento del titolo azionario, possono già avere oggi delle perdite, dei rischi, eccetera. Però le obbligazioni di emittenti terzi che siano depositate su conti, depositi, titoli accesi presso il Monte dei Paschi non hanno nessun rischio. Marcello da Livorno. Sì, pronto? Sì, buongiorno, tutti toscani. Sì, pronto, buongiorno. Io volevo sapere, per quanto riguarda quel fondo di assicurazione di 100.000 euro. Sì, il fondo interbancario, sì. Ecco, ma per chi invece ha dei depositi vincolati oppure delle obbligazioni, l'azione di risarcimento è diversa? È possibile... rispetto a chi ha delle sul tema azioni. Delle obbligazioni ci siamo già arrivati, Marcello, ci siamo già andati poco fa, dipende dalla tipologia di obbligazione naturalmente, quindi dal suo grado di rischio e tanto altro ancora, però l'obbligazione non ha nulla a che fare con le procedure di risarcimento che eventualmente si attivano con il fondo interbancario di tutela dei depositi, che riguarda solo, Marco Lo Conte, i titolari di un rapporto di conto corrente e conto di deposito e conti vincolati. No, volevo dire una cosa, Marco, sì, Vitaliano D'Angelo. Per quanto riguarda obbligazioni, fondi, eccetera, se non ricordo male, le banche, ma anche i fondi pensioni, le casse, eccetera, devono avere la banca depositaria. Cioè, tutti questi titoli vengono gestiti, dati a una banca terza, una banca depositaria, proprio che ha un patrimonio separato, proprio per evitare appunto eventuali problemi. Sottrazioni tipo. Strane, certo. Per cui ecco, è patrimonio separato anche da questo punto di vista. Okay. Allora, qua abbiamo terminato gli ascoltatori, ma stiamo... Ah no, ecco, Alessandro da Grosseto, un caso aggiuntivo. Sono tutti toscani, li stai scegliendo tu, Marco, o casualmente stanno chiamando tutti dalla Toscana? Posso Alessandro, dire... buongiorno. Si aspetta che c'è un altro caso interessante. Buongiorno. Buongiorno, senta, io volevo fare una domanda. Io ho una piccola polizza vita con MPS, però è emessa da un'altra agenzia di assicurazione che è AXA. Sì, l'abbiamo già detto, c'è anche un... sì. Volevo sapere solo se c'era un rischio connesso oppure se non c'è nessun problema. Alessandro, grazie. Stesso discorso. Patrimonio separato è AXA, la titolare di questa polizza vita, Monte dei Paschi. Anche qua, spieghiamo in soldone, sta intermediando questi prodotti di investimento che sono appunto legati fondamentalmente alla... al mondo pensionistico, Marco, che tu conosci anche molto, molto bene. Sì, ci sono diverse tipologie. AXA, che è anche azionista di Monte dei Paschi di Siena, ha da anni una joint venture con Monte dei Paschi per il collocamento e la distribuzione di strumenti assicurativi e previdenziali. L'emittente, diciamo così, della polizza è AXA. MPS, in questo rapporto di Banca Assurance si chiama, è sostanzialmente il collocatore, ma è una joint venture, una società. Curioso fino a un certo punto che siamo tutti toscani, perché è un meccanismo che fa parte dei nostri comportamenti, ma anche non solo in Italia, negli Stati Uniti, in tutto il mondo, si tende a sottoscrivere, a fidarsi di istituti finanziari della propria area geografica. I toscani MPS, i milanesi Cariplo e poi Intesa, Popolare di Milano, è abbastanza naturale, si chiama home bias, cioè la tendenza a rimanere a casa. Ci si fida delle persone che parlano il nostro dialetto, accento, che hanno il nostro accento, per cui basti vedere le relazioni anche del credito cooperativo sul territorio, no? Ecco, però viviamo in un mondo che ormai è globalizzato, internazionale, con un click su internet possiamo spostare del denaro, possiamo conoscere un amico che abita alle Hawaii e parlare con lui via Skype, possiamo fare tantissime cose. È il caso di non utilizzare questo elemento come fattore di fiducia. Bisogna ricordarsi che il mondo è fatto di un'offerta abbastanza ampia, bisogna fare uno sforzo per sottoporre gli altri, quelli che ci propongono degli investimenti, delle scelte, ad una verifica. Non facciamo cose che non capiamo. Mi sembrava che un altro ascoltatore di prima non sapesse bene che cosa ci fosse dentro il suo portafoglio. Questo non vogliamo tirargli le orecchie, però è opportuno, per non salutare il nostro denaro, fare un piccolo sforzo, magari con una persona che ci può aiutare, con un consulente, per capire bene che cosa facciamo. Se non lo capiamo, lasciamo perdere. Allora prendiamo a spunto questa vicenda, visto che al momento ancora le bocce sono ferme, non quelle della magistratura, facciamo il punto della situazione fra i nostri investimenti per capire anche se li abbiamo troppo accentrati, no? Con un'unica figura di riferimento. Grazie a tutti, ritorneremo sicuramente su questi argomenti prossimamente. Grazie anche all'avvocato Fiorio, che è stato con noi, Marco Loconte, Vitelino D'Angerio. Lunedì c'è Valeria De Rosa con voi, noi ci risentiamo martedì. A tutti buon fine settimana.